Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho iniziato non proprio benissimo, purtroppo nella prima serie l'ultimo colpo mi è scappato e avevo delle buone sensazioni sia sugli sci che anche al tiro, però l'ultimo giro è stato molto tosto, diciamo. Ho pensato a un certo punto, mi va bene anche l'argento oggi, poi ho pensato no dai cavolo, combatti, devi vincere, e poi ce l'ho fatta. E ha vinto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la gioia avete sentita, la simpatica grinta di Dorothea Wierer, la campionessa altoatesina di biathlon, che ai mondiali di Altselvag ha completato il suo secondo oro conquistato nella gara individuale dopo quella mista dei giorni scorsi, quindi una grandissima soddisfazione. Ce ne occuperemo sul finale della puntata, perché prima avremo cose più, diciamo, impegnative. Farò naturalmente il punto quotidiano sul coronavirus, ci sono diverse novità, tra cui per esempio la Russia, che ha deciso proprio di chiudere l'ingresso a tutti i cittadini cinesi, proprio forse la misura più drastica in assoluto nel mondo. Molte altre poi le cose di cui parlare, sempre legate all'epidemia del coronavirus, ce ne occuperemo con il virologo Fabrizio Pregliasco. Poi ci sono naturalmente altri temi, tra cui quello in primissimo piano, l'offerta di Intesa San Paolo SUBI, che cosa comporta questa grande operazione, e anche per esempio per quanto riguarda i risparmiatori ne parleremo con un grande esperto del Sole 24 Ore. Poi diversi altri temi, non so a raccontarvi tutto, altrimenti poi tra poco c'è la sintesi della giornata come sempre. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp da inviare con le vostre riflessioni, i vostri commenti, le vostre domande, anche per esempio sul coronavirus, al 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Coronavirus è salito a 1.875 il numero delle vittime, mentre le persone contagiate sono 73.337. Un italiano contagiato sulla nave Diamond Princess e un altro connazionale è in isolamento volontario a Sanremo, era sulla nave da crociera ferma in Cambogia, e la Russia vieta ai cittadini cinesi l'ingresso nel paese. L'offerta di Intesa San Paolo SUBI, l'obiettivo è creare un campione europeo che competa con le prime banche in Europa, sottolinea l'amministratore delegato di Intesa Carlo Messina. Siria, l'allarme dell'UNICEF, 500.000 di bambini sfollati nel nord, decine di migliaia al freddo, in tende e ripari di fortuna. Viterbo, indagato per omicidio colposo, un medico del pronto soccorso per la morte della 16enne Aurora. Addio a Flavio Bucci, se n'è andato a 73 anni l'irregolare di talento del cinema, morto solo e in povertà dopo una vita di eccessi. Sport, nel biathlon Dorothea è ancora d'oro ai mondiali di Anterselva, la Wierer fa il bis. Calcio, serata di Champions con l'andata dei primi due ottavi di finale, Atletico Madrid Liverpool e Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. Partiamo quindi dagli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus. Secondo gli ultimi dati ufficiali, è salito, avete sentito, a 1.875 il numero delle vittime, 73.337 i contagiati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che sono 92 i casi in 12 paesi fuori dalla Cina. C'è anche un italiano fra le persone contagiate dal coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, ormeggiata a Yokohama in Giappone. Tre italiani invece sono sbarcati senza effettuare i test dalla nave West Dharm in Cambogia, nonostante a bordo una donna risultasse contagiata. Sono stati rintracciati, si trovano in auto-isolamento, uno vive a Sanremo. Intanto continuano a migliorare le condizioni della coppia di cinesi ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma, mentre giovedì dovrebbe finire la quarantena per i 55 connazionali alla città militare della Cerchignola. La Russia intanto vieta ai cittadini cinesi l'ingresso nel paese, ma farò più dettagliatamente il punto tra poco col virologo Fabrizio Pregliasco. Banche adesso, con l'offerta pubblica annunciata da Intesa San Paolo SUBI Banca, che domani riunirà il consiglio di amministrazione. Un'offerta non concordata, ma che spero il management UBI ritenga amichevole, anche se spetterà agli azionisti decidere a fine luglio. Lo ha ripetuto più volte il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, presentando l'offerta pubblica di scambio annunciata ieri sera su UBI Banca, nel giorno in cui quest'ultima ha presentato il piano. Valore dell'acquisizione 4,9 miliardi di euro. Intesa offre 17 azioni proprie per 10 titoli UBI che in borsa hanno guadagnato oltre il 23%. L'obiettivo? Creare diventare un leader europeo, spiega Messina. Creiamo un campione europeo che realmente può competere con le prime due banche in Europa, cioè con BNP e Santander. Sul fronte dei numeri, attesi 6 miliardi di utili nel 2022 e ricavi per 21 miliardi, previste 5.000 uscite su totali 110.000 dipendenti, ma solo su base volontaria. Ogni due uscite assumeremo un giovane, ha spiegato il numero uno di Intesa San Paolo, che con la fusione avrà 30 miliardi di crediti in più per l'economia reale e 10 miliardi per la green economy. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi su questa operazione il commento del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha detto: quando nascono giganti, specialmente con la bandiera italiana, è un elemento sicuramente positivo. E la Borsa di Milano promuove a sua volta l'operazione di Intesa su UbiBanca. L'operazione Intesa San Paolo UBI irrompe a Piazza Affari come un fulmine a ciel sereno e scatena gli acquisti in borsa su tutto il comparto bancario. Il mercato ha già votato sì all'aggregazione, più 23,5% per le azioni, il cui prezzo si è già allineato ai valori della proposta messa sul tavolo da Intesa. Il titolo di quest'ultima è salita del 2,3% perché gli investitori vedono di buon occhio l'ulteriore crescita dimensionale e i maggiori dividendi attesi. La mossa a sorpresa ha avuto poi riflessi anche sugli altri titoli bancari, la convinzione che nel 2020 ripartiranno le alleanze tra gli istituti. Banco BPM e Monte dei Paschi sono salite entrambe del 5%. Unica eccezione è stata la Popolare dell'Emilia Romagna, caduta dell'11%. A seguito dell'operazione Intesa UBI, infatti, la Banca di Modena potrebbe acquistare dal nuovo gruppo fra i 400 e i 500 sportelli, ma per far questo dovrà chiedere ai suoi soci uno sforzo anche di 1 miliardo di euro. Andrea Fontana da Radio Corp per Radio 24. E nel corso di questa puntata cercheremo di capire gli elementi principali di questa operazione. Si chiude oggi a Bruxelles la 2 giorni di vertice Eurogruppo Ecofin, cioè il Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari, durante i quali la Commissione Europea ha presentato le sue idee di riforma del patto di stabilità. Francia e Italia hanno chiesto maggiore flessibilità sugli investimenti legati anche al Green Deal europeo. Il nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava, ha intervistato su questo il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni. Se ne è parlato, naturalmente sono venute fuori le differenze che conosciamo tra paesi che mettono, se vogliamo semplicisticamente, più l'accento sulla necessità di non mettere in discussione la stabilità e paesi che spingono più per la crescita. Sinceramente mi sembra una divisione leggermente ideologica, perché credo che dovrebbe essere nell'interesse di tutti, anche nei paesi che ci tengono alle regole della stabilità, il fatto che di fronte a un ciclo economico di bassissima crescita e di fronte a sfide così impegnative si trovi una strada per facilitare gli investimenti. Politica. Due parlamentari sono passati oggi a Italia Viva. Doveva esserci la fuga da Italia Viva, invece il partito di Renzi cresce. Oggi Michela Rostan ha lasciato Liberi Uguali e Tommaso Cerno ha lasciato il PD. E nella giornata di domani, questo detto da fonti di Italia Viva, Renzi, il leader di Italia Viva, promette dal salotto di Porta a Porta, dove sarà, un discorso duro e franco, ha detto. Girano poi con insistenza voci di appoggio esterno al governo, ma fonti renziane spiegano che al momento è più probabile che si arrivi a un ultimatum a Giuseppe Conte. Il garante nazionale delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, ha espresso preoccupazione per i rimpatri forzati verso l'Egitto, che nel 2019 sono stati ben 363. Questo richiamando il caso dello studente egiziano Zaki, che studia a Bologna ed è in arresto, è stato torturato in Egitto, e ha invitato il garante a rivedere l'accordo bilaterale per i rimpatri con l'Egitto, perché in tema di situazione dei diritti umani l'Egitto dal 2020 non è più quello del 2007, quando l'accordo fu firmato. La presa di posizione nel corso di un convegno in cui Palma ha comunque sottolineato i grandi passi avanti fatti dall'Italia sul tema dei rimpatri forzati. Estero, Siria, l'allarme dell'UNICEF, 500.000 di bambini sfollati nel nord, decine di migliaia al freddo, in tende e ripari di fortuna. Ne parleremo di questa situazione terribile con il portavoce di UNICEF Italia. Poi la Turchia, una sentenza clamorosa che ridà fiato all'opposizione nel paese. Dopo anni tra indagini e udienze, il tribunale di Silivri a Istanbul assolve in un colpo solo tutti gli imputati presenti al processo contro alcune delle figure di maggior spicco delle manifestazioni antigovernative di Gezi Park nel 2013. Dopo 840 giorni di carcerazione preventiva, la cui conclusione era stata chiesta invano anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani, torna così libero anche il noto imprenditore e filantropo Osman Kavala, diventato il simbolo della punizione che il governo di Ankara aveva pubblicamente invocato per i leader della più grande ondata di proteste della Turchia contemporanea. E adesso di nuovo in Italia con buone novità che arrivano da Genova. L'ultima pila, la 18ª, ha preso forma definitiva. Come le altre, svetta per 40 metri. Se messe tutte insieme tra parti esposte e sotterranee, sfiorano i 1500 metri d'altezza. Sono state completate in meno di 8 mesi. La prima fondazione era iniziata infatti il 24 giugno scorso. La corsa contro il tempo per ridare a Genova il nuovo ponte sul Polcevera dunque procede spedita dopo i 2 mesi di ritardo accumulati in autunno anche a causa del maltempo. Delle 19 travi, 10 sono già state sistemate in quota, entro poco più di un mese saranno varate, come si dice in gergo, le altre 9, tra le quali l'impalcato che scavalcherà il torrente. Per sollevarlo dovranno essere temporaneamente interrotte le linee ferroviarie, seguiranno gli allestimenti e i collaudi per i quali occorreranno altri 3 mesi. Secondo il cronoprogramma aggiornato, le prime auto transiteranno sul nuovo ponte entro la fine di giugno. Circola già una data ufficiosa, l'inaugurazione potrebbe avvenire il 21 giugno. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca: c'è un indagato nell'indagine della procura di Viterbo sulla morte di Aurora Grazzini, la 16enne trovata morta in casa sabato mattina. Si tratta di uno dei medici del pronto soccorso dove la minorenne si era recata perché accusava uno stato di ansia e un attacco di panico. Nei confronti del medico l'accusa di omicidio colposo. Ora si attende l'esito dell'autopsia per capire quali siano state le cause della morte. Calabria, capitano ultimo sarà l'assessore all'ambiente della regione. Lo aveva detto Iole Santelli, neogovernatrice, che avrebbe dato una svolta decisiva alla vita politica calabrese, e da Roma, dove ha tenuto una conferenza stampa a Montecitorio, ha annunciato il nome del primo assessore della sua giunta, il capitano ultimo Sergio De Caprio, noto per aver arrestato Totò Riina nel 93. Con il grado di colonnello è stato vicecomandante dei carabinieri per la tutela dell'ambiente a Roma e adesso si occuperà dell'ambiente della Calabria. Molto fortunato e allo stesso tempo molto sfortunato, con molte luci e molte ombre, ha detto Iole Santelli. Il capitano ultimo dovrà subito occuparsi dell'emergenza rifiuti, della depurazione e delle bonifiche, ma ci sono anche 3 parchi nazionali in Calabria. Il mio obiettivo è tutelare l'autodeterminazione delle comunità calabresi senza l'interferenza delle mafie di ogni tipo, ha detto subito il neo assessore, che normalmente si presenta in pubblico con il volto coperto. Francesco Stratini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. Cinema: tra qualche giorno al Festival di Berlino in concorso ci sarà il film di Giorgio Diritti dedicato al pittore Ligabue, e proprio oggi la televisione, il cinema e il teatro perdono il Ligabue più famoso sullo schermo. È morto Flavio Bucci. Aveva vissuto sempre sopra le righe e lo aveva raccontato lui stesso poco più di un anno fa, presentando il documentario a lui dedicato, Flavio, nel quale non aveva avuto paura di parlare dei suoi ricordi più ingombranti. Se non hai passato non hai futuro, anche un futuro sbagliato, intendiamoci, non sono convinto di avere sempre ragione, insomma, in questo ti porta a fare scelte di vita. Flavio Bucci era cresciuto nella Torino del dopoguerra tra gli immigrati del sud, lui di famiglia un po' foggiana e un po' molisana, aveva subito abbracciato il teatro. Poi venne sedotto dal cinema e dalla bella vita. All'inizio degli anni 70 era sbarcato a Roma, forte di un'amicizia con Gian Maria Volonté che gli aveva presentato Elio Petri. Da lì arrivarono film come La classe operaia va in paradiso e La proprietà non è più un furto, un rapporto intenso e burrascoso. L'unico regista che menava era famoso perché lo chiamavano il capoccione. Mio padre non mi ha mai dato uno schiaffo. Le botte che io ho preso dal capoccione le so solo io del capoccione. La lista delle sue apparizioni è lunghissima. Nonostante il suo isolarsi dal mondo negli ultimi anni, non aveva smesso di recitare e di restare nei ricordi degli italiani, soprattutto per quell'indimenticabile sceneggiato televisivo dedicato al pittore e scultore Antonio Ligabue. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere lo sport, Dorothea Wierer ha vinto l'oro nella gara individuale femminile ai mondiali di biathlon in corso ad Anterselva, bissando il successo nella gara a inseguimento. L'avete sentita all'inizio all'inizio, la risentiremo dopo, ne parleremo dopo con Dario Ricci, che invece adesso ci aggiorna sulle partite di Champions, caro Dario, tutte straniere, no? Sì, sì, buonasera Roberta. Ciao, finalmente Dario. Ritornata la Champions, è un po' in crisi d'astinenza calcistica, perché la Champions è il torneo sicuramente più importante al mondo, 18° di gioco a Madrid tra Atletico e Liverpool. Il risultato di 1-0 per i colchoneros, decide finora la rete di Saul al terzo minuto, in mischia il tocco sotto misura dopo azione di calcio d'angolo, mentre 0-0 ancora a Dortmund tra Borussia e Paris Saint-Germain. Grazie caro Dario, a dopo quindi con Dario Ricci, e adesso sentiamo quali sono gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, per cominciare poi a affrontare alcuni temi con gli ospiti a partire dagli aggiornamenti legati al coronavirus. Intanto, fra i vostri messaggi, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, leggo questo di questo ascoltatore che dice, Roberto da Orvieto: dottoressa Giordano, buonasera, la sto aspettando questa sera, sono rientrato a casa giusto in tempo per ascoltare i suoi ospiti e naturalmente lei, e questo devo dire fa benissimo, e aggiunge: questa sera con i suoi ospiti sarò molto molto severo. Cosa debbo questa severità? Comunque faccia come intende, come vuole, a tra poco. È nato un ibrido che rispetta l'ambiente e anche i tuoi risparmi. Nuove 500 e Panda Hybrid. Sedili infilato riciclato dai mari. Fino al 30% in meno di emissioni. Esenzione del bollo fino a 6 anni. E più libertà di circolare. A un prezzo che piace a tutti. Da 10.900 euro oltre oneri finanziari anziché 12.400 euro. Con finanziamento B-Hybrid. Nuove 500 e Panda Hybrid. L'ibrido secondo Fiat. Fino al 29 febbraio. TAN 6,45. TAEG 9,33. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su fiat.it. Anche sabato e domenica. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano sempre con voi per proseguire questi 60 minuti ricchissimi di aggiornamenti. Avete sentito la sintesi prima della giornata, dei fatti più importanti, e adesso cominciamo invece con gli ospiti man mano ad approfondire alcuni argomenti in primo piano. Naturalmente tra questi c'è l'offerta pubblica di scambio, di acquisto dell'Intesa San Paolo su Ubi, ma prima di tutto gli aggiornamenti sul coronavirus. Queste tra le notizie naturalmente in primissimo piano, e poi avete sentito anche dell'allarme dell'UNICEF per quanto riguarda la Siria, 500.000 di bambini sfollati nel nord con decine di migliaia al freddo. Ne parleremo con il portavoce di UNICEF Italia. A Viterbo, indagato per omicidio colposo un medico del pronto soccorso per la morte della 16enne Aurora, e poi addio a Flavio Bucci, se n'è andato a 73 anni, l'irregolare di talento del cinema, è morto solo in povertà dopo una vita di eccessi. Per lo sport, nel biathlon Dorotea è ancora d'oro ai mondiali di Anterserva, la Virer che fa il bis appunto con la medaglia d'oro. E chi l'avrebbe detto? Sembrava impensabile solo sino a 2 mesi fa, eppure eccoci qui tutti i giorni, qui a Effetto Notte, con il puntuale appuntamento con il quale, insieme a luminari, esperti, figure istituzionali, vi aggiorno sull'evoluzione del coronavirus, il Covid-19. Quindi cominciamo, come sempre, col bilancio dei contagiati e delle vittime. Le persone contagiate sarebbero al momento, secondo i dati ufficiali della Johns Hopkins University, 73.337, quelle ricoverate 13.124, mentre è salito a 1.875 il numero delle vittime. Per quanto riguarda i casi fuori dalla Cina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità comunica che sono 92 i casi in 12 paesi, anche se poi è arrivata un'altra agenzia, non so se come integrarla, dove si dice sempre da parte dell'OMS che ci sono 110 nuovi casi in 24 ore, inclusi i 99 a bordo della Diamond Princess. Sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è importante che tutti i paesi siano pronti e trattino i pazienti con empatia, dice il direttore generale, e proteggano gli operatori della sanità. Allora, la Russia ha prontamente pensato bene di vietare ufficialmente l'ingresso a tutti i cittadini cinesi su suolo nazionale. Per quanto riguarda l'Italia, stanno migliorando le condizioni della coppia cinese ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma, così come sta sempre piuttosto bene, per fortuna, il giovane ricercatore di 29 anni che è stato il primo italiano contagiato ed era di ritorno insieme con nazionali da Wuhan. C'è poi un italiano tra quelli imbarcati sulla Diamond Princess, la nave da crociera che è bloccata da diversi giorni nella baia di Yokohama in Giappone. dalla quale domani sbarcheranno 500 passeggeri, che è risultato positivo al coronavirus. È un passeggero, non un membro dell'equipaggio, perché lì ci sono 35 italiani in totale su questa nave, di cui 25 facenti parte dell'equipaggio. Il volo per riportare in Italia i connazionali pare dovrebbe partire giovedì. Altro italiano è un uomo in isolamento a Sanremo che era a bordo della nave bloccata in Cambogia. Allora, saluto immediatamente il grande virologo che lavora presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano, che è il professor Fabrizio Pregliasco. Professore, bentornato. È un piacere essere con voi ancora una volta, purtroppo, per parlare ancora degli avanzamenti di questa cosa che preoccupa oggettivamente. È il piacere tutto nostro, e soprattutto poi abbiamo bisogno delle sue puntuali sottolineature, informazioni e chiarimenti. Allora, intanto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, ha detto: dobbiamo essere molto cauti quando analizziamo i dati sull'andamento del coronavirus, e dice: oggi i dati mostrano che il picco epidemico sembra sia quasi stato raggiunto, il picco, e quindi si comincia a immaginare una forma di rallentamento dell'epidemia sia a livello cinese sia a livello internazionale. Quindi dobbiamo, può essere questa una buona notizia, professor Pregliasco? Sì, sono giorni che in effetti c'è un susseguirsi di casi, ma non con quella velocità dell'inizio di questa epidemia. Ogni epidemia segue una curva campana, diciamo così, con una crescita, un momento di livello massimo che può mantenersi nel tempo e poi scendere, come per esempio sta facendo l'influenza. Siamo arrivati due settimane fa al picco, ora stiamo decrescendo, quindi sulla nostra influenza nostrana, però ci terrà purtroppo ancora compagnia per 3-4 settimane, quindi la situazione credo vada vista in un senso positivo, perché le azioni imponenti fatte in Cina stanno, come dire, frenando questa capacità purtroppo di diffusione di questo virus, ed è questo l'elemento che deve continuare a mantenersi come problematica da non sottovalutare a livello istituzionale. Però appunto io credo che, al di là dell'imprecisione dei numeri, ma è inutile stare a ribadirlo, è ovvio, in ogni epidemia non tutti i casi vengono segnalati, certo, ma l'importante è vedere il trend, no? L'andamento, e questo è sicuramente un aspetto positivo, insieme al sistema di tenuta dei casi fuori dalla Cina, in particolare dall'epicentro, quindi non stanno crescendo in modo, come dire, spaventoso, anche se è ovvio che qualche caso sfuggirà, qualche soggetto che magari è sceso da quella famosa rave in Cambogia e se n'è andato in giro per il mondo, ma qui ovviamente non tutte le azioni sono possibili al 100%, però credo che ciò che si è visto oggi nel mondo è un effetto che magari ha visto le sue, come dire, anticipazioni quando abbiamo avuto a che fare con la SARS, con l'aviaria, con l'H1N1, con tutte le polemiche che sono conseguite, ma sicuramente il fatto di fare informazione come fate voi è fondamentale nell'ottica di una responsabilizzazione delle persone, come io spero e penso anche nel quel gruppo di cinesi che vogliono rientrare a Prato, in Italia. Sì, in Toscana c'è anche una polemica che sta crescendo, no? Sul fatto che pare che la Toscana lasci loro la libertà di rivolgersi, se vogliono, ai ambulatori preposti o mettersi in autoisolamento senza, appunto, che ci sia invece un controllo, diciamo, più stringente, professor Pregliasco. Ma è chiaro che si tratta di verificare da che zona stanno provenendo, perché è vero, la Cina, quasi tutte le province della Cina sono in qualche modo coinvolte nella presenza di casi, però non tutte, e quindi io ritengo che si tratti di monitorare la situazione, di avere un quadro, diciamo così, complessivo delle persone che rientrano e monitorarle. Io spero e credo che questa azione sistematica possa, come sembra, dare dei risultati positivi, ma davvero rilanciamo però il fatto che in Italia per ora il virus non circola a livello della comunità. Questo è un elemento importante da ribadire come appello giornaliero. Professore, fra i vari messaggi che arrivano, io avevo ricordato nella sintesi, insomma, di tutti i fatti principali, di tutti gli sviluppi principali della giornata, che la Russia ha deciso di vietare gli ingressi ai cittadini cinesi sul territorio nazionale, appunto, della Russia. Giuliana dice: noi siamo stati tacciati di incompetenza nel chiudere i voli con la Cina, adesso la Russia non li fa entrare. Massimo aggiunge: da noi invece i porti aperti. Che ne pensa di questa decisione della Russia? Le pare esagerata? In effetti è piuttosto impegnativa. È chiaro che sono tante le opzioni che i vari decisori politici poi devono prendere in queste situazioni, e ogni scelta, sì, no, facciamolo, non facciamolo, ovviamente ha delle conseguenze spaventose sulla qualità della vita di persone, su aspetti soprattutto anche economici, che ovviamente vanno anche calibrati in funzione della situazione. Quindi si tratta di valutare tempo su tempo quelli che possono essere le stringenze. Noi peraltro sull'ambito dei voli siamo stati più stringenti di altri, e questo sicuramente aiuta, perché, come dicevo prima, tutte queste iniziative non è che azzerano, tra virgolette, la possibilità di contatti. Quello che ci importa è una riduzione statistica significativa, cioè rispetto a 100 occasioni di contatto, se noi riusciamo con interventi come possono essere quello appunto del blocco dei voli, riusciamo a ridurli del 60-70%. È vero, qualcuno potrà andare a Parigi e poi arrivare in treno e non farsi, come controllare, dire, beccare in termini pratici, però nemmeno il controllo è sufficiente, perché diciamolo, no, la verifica di temperatura allo sbarco è utile per rimarcare l'importanza, no, della sorveglianza, della presenza, e poi rimane sempre quella autoresponsabilizzazione di ognuno di noi, certo, nei confronti della propria vita e quella degli anche altri. Quella degli sta vicino. Professore, allora un maxi studio cinese che vedevo di oggi, il più grande che sia stato fatto sinora, dice che le forme lievi sono nell'80% dei casi in realtà di questa forma di polmonite, quindi per l'80% casi lievi, più a rischio gli anziani e i malati, confermata la letalità tra il 2 e il 3%, nessuna vittima sotto i 9 anni, pochi casi anche sotto i 30 anni, mentre c'è Maurizio che dice: oggi abbiamo un morto per coronavirus ogni 6-7 guarigioni, che mi pare una cifra pazzesca questa, in realtà una proporzione non mi sembra quella giusta. Dice: stando ai dati dei contagiati dobbiamo aspettarci 10-12 mila morti e 60 mila guarigioni, perché dovrebbe variare il rapporto morti-guarigioni se non abbiamo un vaccino e poche armi di cura? Si può essere breve, no, su questa risposta, professore? Ma no, sicuramente è fondamentale dire che la percentuale di morti è sicuramente anche addirittura sovrastimata, perché ci saranno casi che non sono stati segnalati. Il 2.9 è riferito a Hong Kong, ma la popolazione generale, su tutti i casi complessivi, compresi quelli cinesi, siamo sotto lo 0,4. Ritengo che ad oggi la patologia sia più un problema per il fatto che sia così lieve, perché può diffondersi più facilmente, ed è questo un elemento paradossalmente negativo rispetto alle prospettive del futuro. Professore, rispetto al caso della nave da crociera Diamond Princess, che appunto è bloccata da almeno 2 settimane nella baia di Yokohama in Giappone, perché ci sono tutti questi casi, è diventata una piccola Wuhan, è stata blindata, e quindi Anthony Fauci, che è direttore dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive degli Stati Uniti e scienziato guida della task force dell'amministrazione americana, ha detto che la quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess è stata un fallimento. Lei è d'accordo? Ah, purtroppo sì, è stata, come dire, una scelta fra una potenzialità di rischio nella diffusione a livello del territorio, quindi della comunità. La speranza effettivamente era che le condizioni di isolamento relativo fossero più efficaci, invece purtroppo oggettivamente gli spazi comunque condivisi in un contesto come una nave da crociera hanno facilitato comunque la diffusione. Non è facile fare queste scelte nel momento in cui sembrava tutto sommato meno problematico l'approccio. Ecco, questo ci deve far pensare a quelle che devono essere le modalità giuste di sorveglianza, ma soprattutto di isolamento dei soggetti più a rischio. Professore, un'ultima cosa. Allora, c'è un ascoltatore che dice: ha senso o è da apprendisti stregoni quello di guarire i malati di coronavirus con il plasma dei soggetti guariti? Poi vedevo anche che secondo studiosi cinesi ci vuole anche la medicina cinese accanto a quella occidentale, perché in qualche modo rafforza il sistema immunitario delle persone. Per chiudere, professore, che ne pensi? Allora, il plasma è sicuramente interessante perché concentrandolo si possono concentrare immunoglobuline, quindi anticorpi preformati e che hanno salvato la vita di chi è guarito, e quindi sono una delle azioni di, appunto, dell'uso delle immunoglobuline storiche del passato per far fronte alle patologie. Sui farmaci davvero la strada sarà sicuramente ancora lunga. Grazie professor Fabrizio Pegliasco, grazie e buon lavoro a lei, che siamo nelle sue mani. Grazie professore, e a presto, visto che appunto diventa ormai da tanto tempo un appuntamento quotidiano. Adesso ci fermiamo, una pausa di riflessione, una pausa anche di respiro. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Noto e al 349 238 6666, che poi abbiamo un sacco ancora di altre cose da dire. Torno infatti ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state prendendo una boccata d'aria nel panorama giornalistico nazionale. Questo lo dice Giuseppe, che è sito in questo momento, sempre previsto, dottoressa Giordano, eccetera, eccetera. Quindi siete al posto giusto, nel momento giusto, come ormai sapete. Allora, adesso, visto che abbiamo parlato puntualmente degli sviluppi, degli aggiornamenti legati al coronavirus, spostiamoci invece sull'altro argomento fortissimo di giornata, che riguarda le banche, anzi direi le superbanche, perché Intesa San Paolo, che è il maggior gruppo bancario italiano, uno dei principali in Europa, ha deciso di comprare UbiBanca, che è anche questo un gruppo bancario, il quarto gruppo bancario in Italia, Unione di Banche Italiane. La mossa è stata, diciamo, piuttosto inaspettata e clamorosa nella notte tra oggi e ieri, praticamente tra lunedì e martedì. Intesa San Paolo, guidata dall'amministratore delegato Carlo Messina, ha lanciato un OPS, un OPS, un'offerta pubblica di scambio su UbiBanca. L'offerta non è stata concordata con UBI, però hanno chiarito che non è stata una mossa ostile. UBI domani riunirà il consiglio di amministrazione per esaminare questa offerta, capire quali possono essere gli eventuali scenari. Il presidente di Intesa San Paolo, Grospietro, parla di un'operazione non facile, ma dice concepita in modo geniale, e lo dice Grospietro. L'offerta vale quasi 5 miliardi, sono previste assunzioni di 2.500 giovani. Se l'operazione dovesse andare in porto, questa dovrebbe diventare la terza banca europea. Ma qui, per spiegare i dettagli, per cercare di capire meglio in cosa consista, quali possono essere le conseguenze, c'è un divulgatore eccezionale del Sole 24 Ore, un luminare del Sole 24 Ore, che è Moria Longo. Caro Moria, adesso non esageriamo. Non buonasera esagero a tutti. Io ho qui il piacere di avere direttamente in studio Moria. Quindi, intanto, perché questa mossa? Perché Intesa San Paolo ha deciso di lanciare questa operazione? Allora, ci sono delle ragioni specifiche di Intesa San Paolo, delle ragioni che invece riguardano tutte le banche. Tutte le banche devono andare perché, verso... Scusami, la domanda in qualche modo parallela che ti volevo fare è perché c'è bisogno che i gruppi bancari diventino sempre più giganteschi, continuamente ad accorparsi, a integrarsi, ad acquisire? Perché? Allora, il problema vero dei gruppi, il vero problema delle banche è che hanno ormai una redditività molto bassa, perché le banche hanno sempre guadagnato dalla differenza dei tassi. Prendono a prestito soldi a un tasso ed erogano credito a un tasso più alto. La differenza è loro utile. Oggi i tassi in Europa sono a zero. Quindi il loro margine di guadagno su questa attività, che è la loro attività caratteristica, cioè erogare credito, è ormai bassissimo. Le banche stanno cercando di fare altre cose, risparmio gestito così, ma la redditività è scesa moltissimo. Poi c'è un altro problema, che è la concorrenza dalle cosiddette, io le chiamo le low cost del mondo finanziario, quelle che vengono chiamate fintech, società non bancarie, che però svolgono attività bancarie a piccoli pezzi, che rubano attività alle banche stesse. Si può fare qualche esempio? Sì, oggi paghiamo con Satispay, non è una banca, ma fa un'attività bancaria. Oggi ci sono società non bancarie che erogano credito, che fanno sconto fatture, che fanno attività di mille tipi bancarie, ma non sono, banche. Lo fanno a costi molto più bassi, quindi una buona parte della clientela italiana, non solo, questo è un fenomeno globale, sta andando verso queste fintech, quindi, che appunto le low cost della finanza. Questa concorrenza spietata. E le banche tradizionali si trovano ovviamente a perdere fonti di ricavo anche da questo punto di vista. Per di più in Italia c'è un problema ulteriore, che abbiamo avuto una crisi economica gigantesca negli ultimi anni, questo ha accumulato nei bilanci delle banche grandi quantità di crediti in sofferenza, deteriorati, che non possono riscattare, che in parte insomma, hanno, sì, che non riescono più a, in parte sono riusciti a venderli, quindi hanno ridotto questo problema nei bilanci, ma è ancora molto forte. Quindi tutto questo messo insieme porta la necessità, e questo lo dice anche il governatore della Banca d'Italia, lo dice la BCE, lo dicono tutti gli esperti, porta la necessità che le banche si razionalizzino e facciano massa comune. Ovviamente non è che deve rimanere una banca sola gigantesca, cioè non è che andremo verso questo, perché però le piccole, la parcellizzazione non sta più in piedi, perché chi è piccolo non riesce a investire in digitale e non sta al passo con i grandi Amazon, con i grandi Apple, che fanno servizi bancari anche loro, quindi devono stare al passo di gente che ha i miliardi davvero per investire, e quindi bisogna mettersi insieme. Questa è l'unica soluzione, almeno allo stato, trovata. E questo è il motivo per cui c'è un consolidamento. Se si guarda invece a Intesa San Paolo, qui ci sono anche altre motivazioni, e possono essere due. La prima, Intesa, come dicevi tu giustamente, si va a comprare una grande banca, UbiBanca, una grande banca italiana sempre, che era diciamo nell'immaginario collettivo una banca aggregatrice, potenzialmente aggregatrice, c'era lei che poteva andare a comprare altre banche. Quindi Intesa di fatto va a comprare quello che poteva diventare in futuro un suo grande concorrente. Quindi neutralizza in qualche modo, non solo l'attacco è la miglior difesa, l'attacco preventivo. E poi c'è un altro tema, che presto o tardi il Tesoro dovrà vendere, rimettere sul mercato il Monte Paschi, che non è un boccone particolarmente appetibile, facilmente digeribile. E Intesa San Paolo, comprandosi questa banca, forse, io non lo so, questa è la mia supposizione, va a dire: ok, sto già facendo un'altra cosa, non rifilatevi pure questa. Questa seconda ipotesi ovviamente è un'ipotesi, però c'è una logica, e comunque le due banche poi hanno una logica industriale molto forte, delle sinergie, e quindi io vedo da come anche hanno reagito in borsa i titoli, anche Intesa San Paolo è salita. Solitamente chi compra scende in borsa, mentre sale chi viene acquistato. In questo caso sono salite entrambe. E questo vuol dire che il mercato ritiene che ci sia una logica industriale, e quindi ha premiato anche Intesa, che è il compratore. Però Moria, c'è il rischio che si vada sempre più a diminuire il numero di grandissimi gruppi bancari? Si arriverà a 2-3 a livello quantomeno europeo? Allora, a livello europeo è un po' più difficile. Perché Intesa si compra UbiBanca, che è una banca non solo italiana ma anche del nord? Entrambe sono banche del nord, Intesa di Milano e Ubi, di Milano e Torino, perché c'è anche l'Anima torinese, Ubi sono di Brescia e Bergamo, quindi siamo tutti qua. Difatti l'abbiamo chiamata sul Sole 24 Ore la fusione a chilometro zero, perché di fatto siamo, di moda. Siamo rimasti qui. E non è andata invece a comparsi una banca straniera. Perché le fusioni in Europa tra un paese e l'altro, sebbene ci sia l'unione bancaria e si sta cercando di uniformare le regole, le fusioni transfrontaliere restano molto complicate. E portano molte meno sinergie, quindi molti meno tagli dei costi, molti meno benefici. E quindi ancora grosse fusioni transfrontaliere non si riescono a fare. Quello sarà forse il futuro, ma quando veramente la legislazione europea sarà livellata su tutti i punti, non solo fiscale ma anche dell'autorità di vigilanza, e tutto sarà facile per poter fare fusioni transfrontaliere. Allora questo potrà accadere, ma in futuro. In futuro. Intanto, per quanto riguarda il presente, cambia qualcosa per i risparmiatori in breve? Beh, per chi ha i titoli sì, nel senso che chi ha i titoli di UbiBanca oggi ha già si è guadagnato il 23%, quindi quello è un cambiamento positivo, e poi dovranno decidere se aderire o no ognuno all'offerta che è stata fatta. Per chiudere, si parlava, se questa operazione andasse in porto, si diceva che ci potrebbero essere 2500 assunzioni. Ora, fino adesso sì, anche 5000 esuberi. Appunto. Allora, In questo caso, si è visto che le banche stanno più, diciamo, buttando fuori che non assumendo. Allora, in questo caso l'operazione dal punto di vista occupazionale prevede 5.000 esuberi, però sono, ci sono scivoli, ci sono già persone che erano intenzionate ad uscire, quindi non dovrebbe essere dolorosa la cosa, lo dicono anche i sindacati. Beh. E 2.500 assunzioni di giovani, quindi in questo caso, diciamo, occupazionalmente dovrebbe non essere doloroso. Però il consolidamento in generale ha come punto debole proprio questo. C'è uno studio di Oliver Wyman, forse esagerato, che parla di 70.000 esuberi potenziali nei prossimi 5 anni nelle banche italiane e 7.000 filiali da vendere per l'intero sistema bancario. Forse esagerano quelli di Oliver Wyman, un scenario fosco, ma è uno scenario comunque che si potrebbe realizzare. Basta pensare che le banche italiane sono piene di filiali, ormai tutti fanno tutto col cellulare, in filiale si va molto meno, ci sono troppe filiali. Quindi diminuiscono anche i dipendenti. Diminuiscono i dipendenti, gli sportellisti, tanti o vengono, bisogna fare esuberi oppure devono essere riqualificati. E quindi c'è una grossa sfida, veramente il modello di business delle banche va completamente reinventato alla luce del digitale, alla luce delle sfide che arrivano per tanti settori dal mondo appunto nuovo della Sperando tecnologia. Sperando che non siano in troppi a rimetterci, comunque staremo a vedere. Questa è la vera speranza e su questo bisogna stare molto attenti. Grazie Moria Lungo, grazie mille. Ciao, grazie Moria. A tutti voi. Viabilità. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E fra le notizie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sempre Roberta Giordano con voi naturalmente, è un dovere morale, politico, umano, tutto quello che volete aggiungere, non dimenticare la guerra in Siria, una guerra civile partita nel 2011, partita da alcune manifestazioni antiregime, che ha causato 500.000 di morti, è stato uno dei più sanguinosi conflitti della nostra epoca. Si parla di quasi 6 milioni di rifugiati, con un impatto enorme che hanno avuto sugli equilibri politici anche dei paesi europei e di quelli limitrofi. E quando pareva finita, tra l'altro, questa guerra, quando si sono ritirati gli Stati Uniti, altri soggetti sono scesi in campo, principalmente la Russia e la Turchia. Ora, ieri vi avevo aggiornati sul fatto che ci sono circa 900.000 civili sfollati nel nord-ovest della Siria in 2 mesi e mezzo di combattimenti tra forze governative appoggiate dalla Russia e quelle dell'opposizione sostenute dalla Turchia, e tra questi, dice un allarme dell'UNICEF, 500.000 di bambini siriani che stanno in situazioni disperate, al ghiaccio, che dormono sotto tende. E allora su questo voglio coinvolgere Andrea Iacomini, che è portavoce di UNICEF Italia. Iacomini, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a voi. Quindi importantissimo il vostro allarme, è importante accendere i riflettori, anche se insomma mi sembra che come comunità internazionale non è che si stia facendo moltissimo, Iacomini. No, diciamo che questa è una guerra che dura da 9 anni, voglio precisare che questa guerra non è finita, che la città di Idlib e tutta la zona del nord-ovest è sotto assedio da più di 2 anni, che ci sono 500.000 bambini, è vero, sì, che sono dovuti fuggire da dicembre dalle loro case, non soltanto bombardati, non soltanto vittime di uccisione e di morti, di poco fa la notizia, ne sono morti 77 soltanto in questo mese, uccisi nell'indifferenza globale, ma in più vengono bombardati gli ospedali e le scuole. Proprio oggi abbiamo avuto la notizia, che abbiamo denunciato, che 2 ospedali che avevano peraltro un reparto di maternità e uno pediatrico sono stati bombardati e quindi completamente distrutti, sono inagibili. A questo, che fa parte diciamo oramai di una prassi di guerra indecente, si aggiunge quello che è il vero e proprio massacro di questo momento, ossia le temperature rigide che ormai sono sotto lo zero, che costringono migliaia di persone, si parla di 70.000 persone e un terzo sono bambini, che di fatto vivono all'aperto oppure in tende di fortuna, e si rischia veramente un massacro di bambini a causa del gelo. Questi bambini hanno vestiti non adeguati, sono spesso in ciabatte, i genitori cercano di portare calore in tutti i modi, accendono fuochi con legna, con il carbone, addirittura bruciando gomme, qui noi abbiamo previsto che se continua così e se non c'è un intervento diretto, non soltanto per fermare le ostilità ma anche per fornire aiuto a queste persone, si rischia veramente una tragedia di proporzioni impressionanti. Non è soltanto l'immagine della piccola Eman di qualche giorno fa che muore di freddo a doverci impressionare, perché purtroppo questo è un bollettino che puntualmente ogni febbraio da 9 anni a questa parte, sia nelle zone limitrofe, come ha detto giustamente lei, ci sono 8 milioni di persone che sono fuggite da questo paese, ecco appunto nei paesi intorno alla Siria, sia all'interno della Siria, purtroppo queste temperature così basse stanno veramente attentando la vita dei poveri bambini innocenti che pagano un prezzo chiaramente altissimo. Iacomini, abbiamo ancora un minuto perché lei ci spieghi perché non interessa a nessuno questa guerra, almeno a nessuno, cioè tranne i soggetti in campo che si vogliono spartire evidentemente un territorio che in Medio Oriente ha la sua importanza, no? In questo momento ci sono in particolare Russia e Turchia, mentre gli Stati Uniti si sono tirati fuori. Se facciamo un ragionamento geopolitico non ne usciamo più, no. Nel senso che qui dentro è chiaro che è come la canzone di Branduardi alla cena dell'Est, per due soldi che non finisce mai, con il cane che morde il gatto e che mangia il topo, è veramente all'infinito, all'infinito. Dall'altra parte è che se noi non decidiamo che è ora di scendere in piazza per chiedere pace ai nostri governanti di tutto il pianeta, come facciamo con l'ambiente, è chiaro che questo tipo di conflitti, che peraltro ci interessano e ci riguardano, non finiranno mai. Allora, se non c'è pressione su chi ci governa, se non c'è la richiesta di pace, soprattutto di fronte a numeri che riguardano bambini, io non parlo soltanto di adulti, di donne, di papà e di mamme, ma parlo di bambini che sono veramente vittime di un massacro senza precedenti, è chiaro che se non c'è un risveglio della comunità internazionale, se si parla soltanto di 2 o 3 episodi, da Ilan alla piccola Eman, una volta ogni 2 anni, non ne veniamo più a capo. È difficile capire il perché, sicuramente la comunità internazionale in questo senso è bloccata e certo, questo purtroppo è una vergogna, sta provocando questa situazione. È una vergogna globale. Grazie Andrea Iacomini di UNICEF Italia. Grazie a voi, buon lavoro. E adesso invece con Dario Ricci cerchiamo di capire quali sono gli sviluppi delle partite di Champions in campo. Dario. Eccoci qua, buonasera, ben ritrovata Roberta. Finiti da pochi i primi tempi sia a Madrid che a Dortmund. In Germania 0-0 alla fine del primo tempo tra Borussia e Paris Saint-Germain, 1-0 invece al Wanda Metropolitano di Madrid per l'Atletico sul Liverpool. Decide finora la rete con un tocco in mischia su azione di calcio d'angolo di Saul dopo appena 3 minuti. Grazie Dario Ricci. Bene, allora grazie, direi che su questo, Dario, su questo aggiornamento possiamo chiudere, poi lo sapete che torno velocemente ad aggiornarvi alle 22.